24 Mattino. Mio padre è morto di Covid, infettato all'ospedale di Vigevano. Era in una casa di riposo con cordone sanitario senza nessun caso. Ha avuto un problema fisico, è stato portato al pronto soccorso di Vigevano. Da lì, fatti gli esami, dopo 3 giorni lo volevano rimandare alla casa di riposo. La casa di riposo ha insistito affinché facessero il tampone e dopo 3 giorni il tampone ha dato esito positivo. Dopo un altri 6 giorni è morto. Per cui forse dovrebbero anche fare un controllo dei propri protocolli. Effettivamente la mia compagna lavora come OS in una struttura psichiatrica. Gli hanno fatto il test sierologico giusto ieri, a lei e a tutte le sue colleghe e colleghi, e hanno trovato qualcuno di positivo, ma poi lo stesso test deve essere confermato dal tampone nasale faringeo. Pertanto, a che cosa serve questo tampone sierologico? La questione dei test sierologici, guardate, è un tema, lo troviamo oggi tra l'altro un po' sui giornali, sparso con indicazioni diverse che arrivano dalle regioni, alcune dal governo, in un grande caos, una grande confusione mi pare, tanto su questi quanto sul tema dei tamponi, quanto, come ribadiamo dall'inizio, sul tema dei numeri, Noi abbiamo regioni che fanno migliaia di tamponi a settimana e regioni che ne fanno centinaia, alcune anche solo poche decine al giorno. E da questi dati noi traiamo delle conclusioni che però non è detto che siano quelle giuste, eh? Ne parliamo spesso da queste parti, lo sapete, eh? Sulla questione della revisione dei protocolli, mi pare di poter dire, da quel poco che ho capito e da quel poco che da quello che ho sentito in questi giorni nei quali così intensamente ci siamo occupati di queste questioni, è che le cose hanno funzionato e stanno funzionando abbastanza bene nelle regioni nelle quali la medicina del territorio ha funzionato, e quindi tutto il sistema che raccordava per esempio i medici di base con l'ASL, o come si chiama adesso, insomma qualsiasi nome abbia assunto adesso, dove c'era già un controllo stretto del territorio, una maggiore attenzione e una maggiore capacità di cogliere i singoli segnali di allarme, dove nei luoghi dove le persone non sono state ospedalizzate immediatamente, in questi luoghi le cose hanno funzionato meglio fin dall'inizio e la situazione si è riusciti a tenerla sotto controllo. Spiace non avere più il direttore dell'AST di Pavia che è stato con noi fino a poco fa, proprio per rivolgere la domanda arrivata dal nostro ascoltatore, insomma, al quale ovviamente porgiamo le nostre condoglianze. La seconda parte di 24 Mattino alle 7:20 minuti e 42 secondi di questo venerdì 17 aprile. È la parte dedicata alla rassegna stampa, con i giornali che si dedicano molto a questo caos, a questa questione delle riaperture. Si comincia dall'auto, dice il Messaggero. Il Nord tratta con il governo, dice la Stampa, niente fughe in avanti. Il Nord non guarisce ma vuole ripartire, titola il Quotidiano Nazionale. Il Nord non aspetta, titola invece il Giornale. Via libera per moda e auto, scrive il Corriere della Sera. Ma che fase 2, terapie intensive lombarde piene, titola il Fatto Quotidiano. Ripartenza fuori fase è il titolo di Avvenire. E se Repubblica parla degli anziani, nessuna pietà, questo è il titolo, il riferimento è ovviamente alle residenze per anziani, alle case di riposo. Il Sole 24 Ore apre con l'elezione, la designazione di Carlo Bonomi alla guida di Confindustria, ne sarà il prossimo presidente E il titolo è Bonomi, sfida tremenda, politica smarrita. Sole 24 Ore che dedica spazio anche al decreto di aprile che punta a 70 miliardi e a un bonus per le vacanze da 325 euro che il governo, sul quale il governo sta riflettendo. Per Libero, Conte è un pericolo pubblico, se ne vada, è fuori legge, titola il quotidiano. Infine, un'occhiata alla Gazzetta dello Sport. Ma sì, va, ma sì. Perché, insomma, qua ancora si parla di riaperture per il mondo del calcio, ma anche di calciomercato, dove l'Inter punta a Timo, e si parla di una riapertura per una ripartenza nei giorni della Coppa Italia. Eccoci di nuovo, dunque, 349-238-6666 per gli sms e messaggi su WhatsApp, anche audio, le vostre voci, fatecele sentire, fatemele sentire. Siamo anche in diretta su Facebook, ci trovate su Instagram, su Twitter, insomma, lo sapete dove ci trovate. Iniziamo come sempre da qualcosa di laterale, poi arriveremo alla questione delle riaperture e a questo caos, ne parleremo tra un attimo con Paolo Mieli nella parte centrale della nostra rassegna stampa, a questo caos che si sta generando con appunto 3-4 regioni che spingono per la riapertura, il governo che un po' frena, ma dall'altra parte mi sembra di poter dire già da adesso che quello che si fatica ad intravedere, e guardate che lo diciamo fin dall'inizio, quello che si fatica ad intravedere è una strategia, ma una strategia stabilita fin dal, non dico dall'inizio, ma almeno una settimana, 10 giorni fa, 2 settimane fa, non che dicesse ripartiamo il 4 maggio, ripartiamo l'11 maggio, riapriamo il 20 maggio, ma che dicesse al verificarsi di queste condizioni si potranno riaprire i seguenti settori e potranno ripartire i seguenti elementi di vita. Potremo riaprire i parchi quando avremo questa situazione di contagi e questa situazione di diffusione dei dispositivi di protezione individuale. E questo che forse sta mancando è forse quello che sta generando il caos. Vedremo, vedremo, ne parliamo tra un attimo con Paolo Mieli. Intanto, qualche cosa di laterale, ma nemmeno troppo, che ha a che fare sempre con il virus. E il tema è ancora questo qua dei test sierologici, sui quali vi abbiamo fatto sentire prima, ospite di Coffee Break alla 7, il professor Crisanti, che è quello alla base della strategia che si è messa in atto a voi Euganeo, che è diventato un po' un esempio, no, di come si gestisce in piccolo, naturalmente, in un piccolo territorio con un ristretto numero di abitanti, appunto la situazione di un'epidemia, il quale diceva no, ma guardate che questi test non servono a dare la patente di immunità, forse al limite anche per avere un'idea della situazione epidemiologica, ed è su questo che un po' ci si sta basando. Ne abbiamo parlato ieri col sindaco di Robbio, il primo comune lombardo a prendere la strada dei test sierologici. Ci torna oggi il Corriere della Sera a pagina 9 con una segnalazione interessante, perché mette insieme non solo gli elementi che stanno arrivando adesso da questi test sierologici, ma anche degli studi che sono arrivati in precedenza, che erano più basati in generale sui numeri. Gli esiti dei primi test, ci scrive a pagina, ne scrive a pagina 9 Lorenzo Salvia, il 10% agli anticorpi, picco tra i 50 e i 60 anni. Ancora una volta, qua che cosa manca? Manca una strategia nazionale e un'indicazione nazionale. E dunque, che cosa abbiamo? Abbiamo dei dati che possiamo prendere in considerazione, ma sono da prendere con le pinze, perché sono difformi l'uno dall'altro, perché per esempio in alcune zone del paese questi test sierologici, quelli appunto che dovrebbero valutare la presenza di anticorpi, questi test sierologici sono stati fatti sul solo personale sanitario. In alcuni luoghi, come per esempio a Robbio, sono stati invece fatti su una larga fascia della popolazione, cioè su tutta la popolazione, là in provincia di Pavia, dove si rivela appunto la fascia d'età più colpita è stata quella tra i 50 e i 60 anni. E comunque le regioni e persino i comuni a questo punto si muovono in ordine sparso. Non sono stati fatti su campioni selezionati con una base statistica, in molti casi mirati sul personale sanitario, che è più esposto al virus, come abbiamo visto e come abbiamo raccontato. Per poter capire davvero come si è mosso e come si muove il virus servirebbero numeri più grandi e soprattutto sottoporre al test un campione rappresentativo della popolazione italiana, una strada che dovrebbe materializzarsi a breve. Diciamo, se il governo è convinto di questa strada, però la intraprenda piuttosto rapidamente, perché questi numeri servono esattamente per decidere qual è la strategia. Il dato più interessante, ci scrive Salvia comunque, viene fuori dall'analisi di 10.000 test, 8.000 in Lombardia, 2.000 in Liguria, fatti su persone sintomatiche e non che hanno avuto contatti con chi ha contratto il virus, e che in ogni caso non sono state ricoverate e non si sono ammalate in modo serio. La percentuale dei positivi è sopra il 10%, dice Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive al San Martino di Genova, ed è lo stesso riscontrato sul campione più ristretto del comune di Robbio, il primo che si è mosso su questa strada in Lombardia. Attenzione, è la stessa cifra azzardata due settimane fa dall'Imperial College di Londra, che aveva parlato di 6 milioni di contagiati nel nostro paese, in molti casi sommersi, esattamente il 10% della popolazione. E questa potrebbe essere a questo punto la diffusione del virus, che, come potrete intuire, se la diffusione fosse questa, abbasserebbe il dato della mortalità in maniera drastica. Avò, intanto, in Veneto si è deciso di fare un'operazione curiosa e diversa, perché essendo un esperimento unico, nel senso che a Avò sono stati testati tutti quanti, il tampone è stato fatto a tutti quanti, ebbene si è deciso di passare agli animali domestici. Ce lo racconta il Quotidiano Nazionale a pagina 11, test sierologici sui gatti, la caccia agli anticorpi, il tema è questo, la ricerca degli anticorpi, non solo gli umani. A voi Euganeo, primo focolaio italiano del coronavirus, insieme a Codogno, gli scienziati sottoporranno al test sierologico i gatti domestici. Dopo aver eseguito due volte la prova sui 3.300 abitanti del paesino veneto, attualmente a contagio zero, un'equipe di ricercatori dell'Università di Padova condurrà un test sul sangue dei felini per cercare gli anticorpi alla malattia. L'esame sarà effettuato in base alla volontà, ovviamente non degli animali, ma dei proprietari degli animali. Faremo prelievi per comprendere se, in che modo e quale misura i felini di questo comune, un modello di studio unico, si siano infettati, spiega Massimo Castagnaro, ordinario di patologia generale veterinaria, capo del gruppo di ricerca. Come capite, insomma, non è che la cosa abbia un'importanza immediata, però ti dà la misura di quanto questo virus poi ripassi dall'uomo ad un animale diverso effettivamente, quanto appunto l'animale domestico si possa contagiare e quindi forse anche quanto possa essere effettivamente una fonte di contagio. Cosa ancora? Ancora sui numeri, che sono... son problematici. A pagina 6 della Stampa si racconta di Lombardia ed Emilia, i numeri ci parlano di nuovi contagi, ma soprattutto abbiamo l'Istat che svela un boom di decessi rispetto agli anni scorsi. E c'è un allarme, ancora una volta, ne abbiamo parlato anche ieri, dei virologi sui positivi in isolamento familiare. Appunto, pagina 6 della Stampa, il pezzo lo scrive Paolo Russo, il tema è che tra Lombardia ed Emilia, secondo i calcoli dell'Istat, potrebbero esserci 12.000 morti fantasma, 12.000 persone non calcolate che... in gran parte potrebbero essere morte a causa di Covid-19, per quanto appunto i numeri di queste ore ci diano dei segnali positivi. Anche qua sulla Stampa troviamo il tema dei test sierologici che vengono preferiti ai tamponi, più affidabili, scrive Fabio Poletti sulla Stampa, e molto più veloci. Ma abbiamo sentito appunto Crisanti poco fa con la sua voce dirci che almeno dal suo punto di vista non è esattamente così. C'è un tema di discussione che ha aperto, ve lo segnalo perché lo trovate un po' sparso sui giornali ma anche all'interno del dibattito pubblico e sicuramente fa discutere, un altro elemento di frizione politica, che è il tema del lavoro nei campi e della regolarizzazione degli immigrati. La ministra della salute, cioè, pardon, scusate, le politiche agricole, Teresa Bellanova, nei giorni scorsi ha detto ci vorrebbe una sanatoria per queste persone per farle lavorare nei campi, altrimenti non sappiamo come fare, cioè rischiamo di lasciare i prodotti ortofrutticoli nei campi senza che nessuno li raccolga. A pagina 15 del Messaggero si dà un po' conto del fenomeno e si segnala anche come tutto questo stia avendo un impatto inevitabile anche sui prezzi nei supermercati e nei mercati. Niente lavoratori nei campi, spesa rincarata per il Covid, scrive Carlo Ottaviano. Aumentano frutta e verdura, alle stelle i limoni, secondo Coldiretti i prezzi sono saliti 40 volte sull'inflazione. Cosa pesa? Pesa ovviamente l'assenza di manodopera stagionale, ma pesa anche una domanda maggiore in questo periodo, si parla dei limoni, di agrumi, perché la gente sente evidentemente di aver più bisogno in questa fase di vitamine. Una pausa tra poco. Mattino. Innanzitutto siamo in piena campagna elettorale e vabbè, questo come al solito non cambia. Seconda cosa, non danno indicazioni perché uno, non sanno assolutamente cosa fare, seconda cosa, ancora più preoccupante, non si vogliono assumere la responsabilità. Ma tutta questa autarchia nella gestione dei test sierologici e delle strategie da adottare che fanno i vari comuni e le varie regioni, ma dopo chi è che paga tutte queste cose? Cioè, se il piccolo comune decide di fare test a tappeto e non ha e che soldi utilizza per farlo? I suoi, o dopo viene a presentare il conto a Pantalone per una decisione presa in autonomia? Oh, una buona domanda, così come, caro Paolo Mieli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Entrambe le riflessioni degli ascoltatori ci portano, e ci andremo anche sulle pagine dei giornali, a questo caos micidiale che c'è in questo momento sul tema della riapertura, e non solo della riapertura, anche della strategia per verificare chi è contagiato, chi non è contagiato e via dicendo. Insomma, grande confusione, mi pare. Sì, grande confusione, forse dovrebbe essere questo il titolo, non lo fa nessun giornale ma lo facciamo io e te, il grande caos. L'inizio della fase 2 avviene in un modo che più caotico non si potrebbe, davvero ci sono annunci di ogni tipo, le regioni, altre regioni del nord si sono unite alla Lombardia nel chiedere che tutto si cominci a riaprire, ecco, non si riapra, ma si comincia a riaprire il 4 maggio. Un ministro, Patuanelli, invece vuole già riaprire alcune attività industriali importantissime mercoledì prossimo, cioè, sì. Si gioca su queste date di riapertura come a bingo. E mi colpisce una cosa, guarda, poi ne parleremo, il titolo d'apertura del Sole 24 Ore oggi è Bonomi, sfida tremenda, perché Bonomi è stato indicato come presidente di Confindustria, ma ne parleremo tra un po'. Sì. Ma mi colpisce che a fianco di questo titolo in alto c'è una notizia che vi leggo. In Corea del Sud, la Corea del Sud è lo stato che più avanzato nel superamento del coronavirus, si è votato, è stato rieletto il presidente Moon due giorni fa, e dice in Corea del Sud è tornati positivi 141 pazienti considerati guariti. Sono in totale 141 le persone in Corea del Sud considerate apparentemente guarite, ma che sono risultate nuovamente positive al coronavirus. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali, citate ieri dalla CNN. Gli esperti affermano di non avere al momento chiaro il motivo per cui questi pazienti risultano positivi e che stanno effettuando ricerche. Ecco, questo è un punto, sì. Nel senso che mi colpisce che il Sole 24 Ore abbia messo questa come prima notizia, ripeto, a fianco al titolo di testata. Le certezze scientifiche non si possono definire certezze. Si è deciso, e poi anche di questo parleremo, sì, non solo da parte italiana di ricominciare a vivere, di aprire la fase 2, ma le incognite sono moltissime. Sono moltissime. Come dicevamo, no, in questo caos, per dare solo un'idea prendendo dai giornali, il Messaggero titola: riaperture si comincia dall'auto. Il Corriere della Sera: via libera per moda e auto, e poi insomma tutti gli altri si concentrano su quello che è diventato anche uno scontro politico, Paolo, tra il governo, la regione Lombardia, poi le regioni del nord e il governo, la regione Lombardia e alcuni comuni come per esempio quello di Milano. Insomma, come ci diceva l'ascoltatrice, siamo anche un po' in campagna elettorale, tutto sommato. Esatto, ecco, questo diciamolo nella maniera più chiara: dietro questi scontri si vedono anche i vecchi scontri, quelli fra maggioranza e opposizione, nel senso che tutte le regioni che si sono mosse sono regioni in mano alla Lega o comunque al centrodestra, e regioni contro le quali c'è anche un'offensiva giudiziaria, in particolare la Lombardia per la vicenda del Trivulzio e di altri ospizi per anziani. A questo proposito vorrei segnalare che Luciano Violante, che all'epoca di Mani Pulite fu il massimo teorico, era già nel PCPDS, un ex magistrato, fu il massimo teorico della rivoluzione giudiziaria, oggi in un'intervista al Foglio invita alla prudenza dicendo: guardate, non è il caso di fare di tutte le erbe un fascio, insomma un'intervista complessa, ma il segnale: non correte su quella strada, che è una strada pericolosa. Sì, non percorrete la via giustizialista. Da dire che Violante su questo fronte aveva già in passato, certo, cambiato, no? Un po' già da un tempo che aveva cambiato opinione, però adesso si muove. Prima aveva cambiato opinione. Aveva modificato le sue opinioni su cose che erano avvenute, adesso le sta modificando anche su cose che stanno avvenendo, stanno per accadere. Poi altri terreni di scontro sono il MES, il solito MES, sì. Perché la Lega dice che non si può andare a questa trattativa senza aver fatto un voto in Parlamento, e ha fatto anche un appello quasi brusco al Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica racconta una cronaca del ben informato Marzio Preda sul Corriere della Sera, è molto amareggiato del fatto che i suoi appelli all'unità non sono stati minimamente raccolti, e poi si litiga sulle task force, su quella principale, sì, quella guidata da Vittorio Colao. I giornali dibattono, alcuni dicono che Colao verso Palazzo Chigi con la benedizione di Trump, questo è il Libero, articolo di Fausto Carioti, La Stampa con un articolo di Ilario Lombardo invece dice no, Colao ha rassicurato, sì, Conte. E gli ha detto che non vuole fare il Presidente del Consiglio. Ci siamo. Questo titolo, perché nessuno telefonerebbe a Conte dicendo: io voglio fare il Presidente del Consiglio. Esatto, comunque. Esatto, non si preoccupi. Giuseppe, stai sereno, diciamo. Poi noi abbiamo memoria di cose di questo genere. Poi aspetta, sì, perché sul giornale viene avanzata l'idea di un nuovo Colao, e Fabio Panetta, ex direttore generale di Banca d'Italia, è stato a lungo braccio destro di Mario Draghi. Un articolo di Augusto Minzolini lo accredita come la carta segreta del PD, sì, nel caso anche Colao dovesse fallire. Perché può fallire la task force di Colao? Perché è pletorica. Fatto oggi, con un articolo di Lorenzo Giarelli, ci informa che in questo momento sono in movimento ben 40 task force in Italia che coinvolgono quasi 1000 esperti, cioè c'è anche lì un grande caos, sì, va anche su queste commissioni di consiglieri che sono davvero pletoriche. Certo. Allora Paolo, prima di andare al traffico ti porterei alla designazione del nuovo presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Il Sole 24 Ore a pagina 3 già nel titolo riporta la chiave del discorso fatto ieri in consiglio dallo stesso Bonomi: la politica è smarrita, vogliamo riaprire in sicurezza. E anche qua il tema della riapertura che torna, e il tema soprattutto di quello che dovrà affrontare l'Italia dopo questa crisi da Covid-19, quando ne usciremo. Certo, questa parola smarrimento, politica smarrita ricorre in tutti i titoli di giornale. Devo dire che Bonomi si è presentato in una maniera molto molto forte, ha richiamato all'ordine la politica italiana e Bonomi, come raccontano tutti i giornali, io leggo da un articolo di Repubblica, di Roberto Magna su Repubblica, ha dietro di sé lo Stato Maggiore, a Milano, ecco, tutti dicono Milano si riprende Confindustria, e ha i grandi imprenditori del nord, da Tronchetti Provera, Gian Felice Rocca, Emma Marcegaglia, Diana Bracco, insomma è come un ritorno anti resto d'Italia, un ritorno di un'alzata d'orgoglio, forse ci voleva in questo momento, di Bonomi, che tra l'altro è stato eletto con una maggioranza davvero clamorosa. Sì. E dicevo, è un ritorno del nord, ed è un ritorno del nord con un brusco richiamo alla politica, un sì. brusco richiamo a mettere ordine in quel grande caos da cui siamo partiti. Sì, e appunto da Covid-19. Dunque, ci fermiamo, c'è il traffico, ci ritroviamo subito dopo, andremo un po' all'estero, non solamente per parlare di Covid-19, anche per parlare di Covid-19, ma non solo per parlare di quello, perché insomma di elementi anche diversi ce ne sono. Promo 24. Smart working, un'espressione che abbiamo ormai imparato a conoscere. Significa poter lavorare da casa o da qualunque posto, ma bisogna essere attrezzati con la tecnologia adatta. Conosci Claudia di Enfon? Claudia è il centralino in cloud che ti permette di portare il tuo numero fisso aziendale sempre con te. Non solo, puoi fare e ricevere chiamate su ogni device, anche smartphone e computer, esattamente come se fossi in ufficio. Provalo subito. Se diventi cliente entro il 30 aprile, hai Claudia gratis per 2 mesi e puoi disdire quando vuoi, senza penali. Vai su enfon.com/promo per scoprire tutti i dettagli del servizio e dell'offerta. Richiedi l'attivazione. Il servizio sarà attivo in 24 ore. www.enfon.com/promo. Mattino. Le 7:48 minuti e veniamo all'estero, iniziando direi da Luis Sepúlveda, no Paolo? Che questo è un grande, sono già morti altri grandi, l'architetto Gregotti, Lucia Bosè, insomma ci sono già stati, il Covid ha già portato via dei grandi personaggi mondiali, ma Sepúlveda è più importante di tutti i dati, innanzitutto perché è uno scrittore noto in tutto il mondo, la sua biografia anche politica, fu un grande oppositore nel 73 al colpo di Stato di Pinochet, era stato fra gli amici, se così si può dire, di Salvador Allende, poi ha lottato tutta la vita, era un anarchico, diventato poi un rappresentante dell'estrema sinistra mondiale, ha scritto dei libri e delle favole davvero meravigliose. Se vuoi un dettaglio, io lo prendo da una segnalazione di Maria Volpe sul Corriere della Sera, che oggi, siccome molti stanno a casa, su Italia 1 alle 16:20 potranno rivedere La gabbianella e il gatto, il cartone animato che fu tratto dal celeberrimo racconto di Sepúlveda e che lo ha reso ancora più famoso fra tutti, bambini, grandi, quindi ore 16:20, 4:20 su Italia 1 potranno rivedere questo film. Sai cosa mi colpisce di Sepúlveda, oltre alla sua biografia, adesso non mi metterò a parlare dei suoi libri, mi colpisce il fatto che fu ricoverato il 25 febbraio, cioè quasi 2 mesi fa, tornava da un convegno in Portogallo, tra l'altro non si è mai saputo in questo convegno come mai, se c'erano altri malati, un convegno di scrittori, ed è rimasto, e quindi la cosa fu presa relativamente per tempo, è rimasto sotto controllo, c'era stata a un certo momento una notizia di aggravamento, ma poi smentita, sì. Poi smentita, e adesso è morto, 2 mesi, un ricovero così lungo, anche questo, come la notizia che ti ho dato all'inizio, tratta dal Sole 24 Ore, sulla Corea di oltre 140 persone che hanno avuto, erano guarite e ci sono ricadute, anche questa mi fa riflettere sul fatto che ancora troppo poco conosciamo, di questa malattia. Senti, comunque, visto che siamo visto che siamo all'estero, ti porterei adesso, andiamo anche sugli Stati Uniti, ma prima guarda, c'è queste pagine 16 e 17 del Corriere della Sera, devo dirti non sono niente male, perché fanno un bel riassunto mettendo insieme Germania, Francia, Spagna, Austria, Svizzera, Danimarca, Norvegia, Svezia, Regno Unito, Irlanda, le ho nominate tutte, facendo un riassunto di come si stanno muovendo in questa famosa fase 2, perché anche loro stanno naturalmente ragionando sulla fase 2, forse c'è qualcuno che nella fase 1 c'è entrato solo parzialmente, penso all'Austria, dove ci scrive Elena Tebano, l'80% degli esercizi è già in attività, cioè sono già ripartiti loro. Certo, e mi colpisce anche a me queste due pagine del Corriere della Sera, perché forse il titolo Il grande caos si potrebbe adattare a tutti i paesi occidentali, cioè non c'è una ratio, mi stupisco dell'Europa, cioè l'Europa si fa tanta parola e tutti i paesi dicono il MES, ma tanto per cominciare l'Europa poteva darsi una regola, potevano riunirsi i ministri della salute o anche i capi di Stato e darsi una regola su come rientrare, quali criteri usare, invece si va in ordine sparso. A te ti ha colpito l'Austria, a me la Svizzera, multe da 95 euro a chi fa la spesa in Italia, questo per dirti, prima i parrucchieri e gli ambulatori, poi in Spagna ci fanno i cerchi rossi sul marciapiede nelle pensiline per aspettare gli autobus in modo da tenere a distanza le persone, in Svezia libertà massima, aperti persino i bar, ma gli scienziati hanno dei dubbi, chiedono più rigore. Invece nel Regno Unito, che all'inizio fu il più perplesso, il lockdown durerà altre tre settimane, quindi sarà fino a metà maggio, sì. Insomma comunque a maggio inoltrato, e questo ordine sparso fa preoccupare. Sì. Negli Stati Uniti, tu dicevi, sì, cosa ti ha colpito a te degli Stati Uniti? Allora, guarda, ci sono due o tre elementi. Intanto fammi dire solo una cosa, fammi aggiungere una cosa, perché ce lo segnala un ascoltatore ed è giusto farlo, perché chiaramente ieri è scomparso Luis Sepulveda, molto noto, ma ieri è scomparso anche un monumento del jazz, Lee Konitz, sì, un grande sassofonista, ed è giusto ricordare. Giusta segnalazione dall'ascoltatore. Degli Stati Uniti mi ha colpito il fatto che registrino 4.500 morti, che sono circa il doppio rispetto al giorno precedente, e il presidente americano dice abbiamo raggiunto il picco. Insomma, l'impressione è che chiaramente stanno cercando di prendere le misure e forse ancora non le hanno trovate. In più c'è quella storia del laboratorio, no Paolo? Non so se l'hai vista. Beh, come no, clamorosa, perché questa sta facendo discutere tutti gli Stati Uniti. Qualche giornale la valora che si torna a parlare del fatto che il virus sia uscito da un laboratorio di Wuhan, questa volta non è più creato in laboratorio, ma identificato, forse selezionando un pipistrello, non so come, identificato nel laboratorio di Wuhan e poi uscito per errore. Però sai, quando si dice uscito per errore si dà spazio alle tesi cospirazioniste che dicono che è stato liberato, forse non per errore, e forse certo è un fatto che oggi i paesi asiatici, la Cina in testa, hanno padroneggiato, sì, la questione in modo molto migliore di quanto lo stia padroneggiando il mondo occidentale, e potrebbe essere, però questa è solo un'ipotesi, che sì, alla fine ci ritroviamo con la Cina padrona del mondo, cioè la Cina nel ruolo che ebbero gli Stati Uniti. Un grande tema questo, sicuramente. Tanto ne parleremo ancora, non sì, ti preoccupare. Su questo non c'è il minimo dubbio. A chiudere abbiamo un paio di minuti. Ci richiama all'ordine Roberto da Bergamo e dice non ci sono notizie altre, insomma c'è solo Covid-19. No, ci sono pezzi di mondo che tornano, per così dire, alla normalità, tra virgolette. Come Israele, dove forse si torna a votare perché non hanno raggiunto l'accordo Gantz e Netanyahu. Sì, gli ascoltatori ricorderanno che nei giorni scorsi abbiamo raccontato di quel buffo confronto, perché Netanyahu era in isolamento, e Gans era andato in giardino della sua villetta e si parlavano urlando dalla finestra. Sembrava che l'accordo fosse raggiunto, i primi mesi, il primo anno e mezzo avrebbe governato Netanyahu, poi avrebbe governato Gans. In Italia li chiamiamo gli accordi della staffetta, sì. C'è uno anche tra Craxi e De Mita negli anni Ottanta, mandò a rotoli. Bene, non si mettono d'accordo perché Netanyahu pretende anche che ci sia un limite all'attività giudiziaria nei suoi confronti durante il periodo in cui lui governerà. Gantz non è disposto a concedere, per cui si tornerà, probabilmente è possibile che si torni a votare per l'ennesima volta. Brutto sì. Segno, sembrava sì. Che il Covid li avesse messi spinti a trovare un'intesa, ma non è così. Mentre ritorna, e qua veramente abbiamo 5 secondi, ritorna la tensione in Libia dopo quella che sembrava una parziale tregua tra Haftar e Sarraj. C'è un bel pezzo, se non vado errato, sul Corriere della Sera esattamente che racconta questo. E con questo chiudiamo. Grazie Paolo Mieli, ci sentiamo lunedì mattina. GR24, ci ritroviamo subito dopo con Maria Latella, parleremo col presidente del Piemonte, parleremo esattamente del tema di quanti effettivamente potrebbero essere contagiati e quindi avremo una persona che ci parlerà un po' di numeri. A tra poco.